Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Come ogni anno in questa seconda settimana di ottobre siamo qui a dirvi... Come ogni anno in questa seconda settimana di ottobre siamo qui a dirvi... E c'è sempre, come ogni anno, qui Chiara Albicocco. Sempre. I titoli e poi vi spieghiamo. Come ogni anno siamo nella settimana di Nobel, quelli veri e quelli ignobili, ma divertenti. Tra i vincitori anche una ricerca italiana. La scienza della maratona e dell'ultramaratona. È tutta una questione di biomeccanica, biochimica e di testa. Per salvaguardare il nostro patrimonio storico-artistico ci vogliono anche falchi e sensori a microonde. Quando il disagio mentale si curava con un colpo di martello, l'ospedale neuropsichiatrico di Varese e la parabola della psicochirurgia. Eh sì, come ogni anno, Chiara, siamo qui perché nella seconda settimana di ottobre c'è la proclamazione dei premi Nobel e la proclamazione dei premi... Ig Nobel. Ig Nobel. Lì che non noi... si può dire Ig Nobel. Ig Nobel no, Ig Nobel perché è un po' ignobili, ignobile. Un po' un gioco di parole, una sorta di parodia dei premi Nobel, in cui però ci sono dei veri premi Nobel che premiano queste ricerche un pochino più... inutili? No, diciamo che fanno sorridere ma che poi fanno riflettere, come amano dire gli organizzatori della manifestazione. Fanno anche molto sorridere, a volte sono assolutamente vere, a volte gira la voce che siano state fatte apposta per prendere premio Ig Nobel. Però quest'anno, poi vi diremo più avanti, c'è un bingo. Ora snoccioliamo le varie categorie e poi c'è una sorpresa finale. Il premio Ig Nobel 2010 per la medicina quest'anno va all'Università di Amsterdam e a quella di Tilburg per aver scoperto, senti Federico, che i sintomi dell'asma possono essere alleviati con un giro sulle montagne russe. Beh, certo, hai difficoltà respiratorie, ti mettono sull'ottovolante. Il problema è risolto. Premio della chimica per aver confutato l'antica convinzione che petrolio e acqua non si mescolano. Il premio va honoris causa, beh, a chi poteva andare, ai ricercatori della BP, British Petroleum, per averlo mostrato a reti unificate a tutto il mondo. Non so chi andrà a ritirare il premio. Sì, effetto disastroso. Va ai ricercatori dell'Università di Bristol l'Ig Nobel 2010 per la biologia, per aver documentato scientificamente la pratica della fellazio tra i pipistrelli. Eccola qua. Allora, purtroppo per fortuna la pratica del sesso orale nei pipistrelli è stata ripresa in un video. In un video, sì. Ecco. Allora, per chi fosse curioso e solo per curiosità scientifica, badiamo bene, abbiamo pubblicato il nostro video sul sito www.moebiusonline.eu, dove vabbè trovate anche la descrizione di tutti i premi, ma soprattutto il link più importante alle ricerche vere. E quindi siamo il primo sito porno scientifico. Premio per la fisica per aver dimostrato che se d'inverno si cammina su una strada ghiacciata portando i calzini al di sopra delle scarpe, si cade meno. E questo premio va all'Università di Otago in Nuova Zelanda. Certo, bisogna avere delle calze un po'... Sì, delle calze che... ruvide poi, possibilmente. L'Ig Nobel per la salute pubblica ai ricercatori del Maryland per aver stabilito sperimentalmente che in laboratorio i batteri si attaccano meglio ai ricercatori che hanno la barba. E questo è decisamente utile. Un ecosistema strano. Non manca ovviamente la categoria Premio per la pace, di cui sono stati insigniti alcuni ricercatori britannici per aver confermato la nota credenza che imprecando si sopporta meglio il dolore. Un po' è vero questo. Un po' è verissimo questo. Invece aver perfezionato un metodo di raccolta del muco delle balene utilizzando, bada bene, un elicottero a controllo remoto è la motivazione del premio degli Ig Nobel per l'ingegneria assegnato al Politecnico Messicano. E qui io sono stupido perché il muco ci può essere anche dentro nell'apparato gastroenterico, però quello non lo vedi. Cioè, invece c'è nel naso. Ma dov'è il naso delle balene? Scusa, il naso delle balene è davanti. L'avranno trovato. Sì. L'Ig Nobel Prize nei trasporti è andato invece all'Università di Oxford, che insieme a un team di scienziati giapponesi hanno creato un modello biomimetico dei binari della ferrovia, dimostrando l'utilità dell'osservazione di alcuni tipi di muffe e funghi per organizzare al meglio il piazzamento dei binari stessi. Questa è una ricerca che avevano già ripreso, una sorta di blob melmoso che dicevano che poteva prendere delle decisioni, aveva delle caratteristiche molto particolari. E come nel Nobel veri, esiste il premio per l'economia, che quest'anno ovviamente non poteva sfuggire ai dirigenti di Lehman Brothers and Company, per aver inventato e promosso un nuovo metodo, pensa, di investire il denaro che massimizza il guadagno e minimizza i rischi. Nella motivazione però non si fa riferimento agli effetti disastrosi e planetari che questo metodo ha prodotto. E questo si commenta da sé. Dulcis in fundo. Categoria management, il premio è italiano. No. I ricercatori che hanno svolto la ricerca sono tre: Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda e Cesare Garofalo, che sono ricercatori dell'Università di Catania e sono stati insigniti di questo prestigioso premio per uno studio sull'organizzazione aziendale. Questo è uno studio abbastanza italiano. Già ti viene da ridere. Perché hanno dimostrato matematicamente, e loro sono dei fisici, quindi ci fidiamo, che enti e aziende sarebbero più efficienti se promuovessero le persone in modo del tutto casuale. Oh, e questa è una bella notizia. Noi li abbiamo qua, uno di loro almeno. Sì, abbiamo l'onore di avere il vincitore. Stasera c'è con noi Alessandro Pluchino, fisico dell'Università di Catania. Buonasera Pluchino. Buonasera a voi. Oh. Intanto complimenti, Grazie, grazie. Noi siamo fierissimi. Sono onorato di essere dulcis in fundo dopo questa carrellata, insomma. Di follie. Sì, però la vostra ha un risultato disastroso. Dalle nostre ricerche emerge una sorta di avvertimento contro la meritocrazia ingenua che sarebbe, mi spiego, sarebbe quella di promuovere in ogni caso e sempre il miglior membro, diciamo, di una certa organizzazione a un certo livello gerarchico al livello successivo, che è quello che ci dice, che ci direbbe il senso comune. Cioè il senso comune ci dice: promuovete il migliore a un certo livello perché continuerà a essere bravo anche ai livelli successivi. Ebbene, quello che, ripeto, noi abbiamo verificato e che già era stato intuito da Peter, il sociologo e psicologo canadese alla fine degli anni 60, Lawrence Peter, aveva intuito che questo discorso poteva non funzionare in certi casi. In quali casi? Nei casi in cui, quando si cambia di livello, si cambia anche il tipo di mansioni. Cioè un chirurgo che viene promosso, per esempio, un chirurgo che viene promosso a direttore sanitario, dirigente sanitario. Ah, non è detto che svolga in maniera... Esattamente, non è detto che... non solo non è detto che ovviamente svolga con la stessa competenza con cui svolgeva le mansioni di chirurgo, per cui aveva anche studiato il nuovo ruolo, che ovviamente è un ruolo manageriale, quindi di tipo completamente diverso, ma... diciamo, oltre a mettere una persona che prima era brava nel suo ruolo e non sappiamo come sarà nel nuovo, togliamo dal suo ruolo una persona che lo faceva in modo ottimale e non sappiamo chi metteremo al suo posto. Questo è il punto. Sarebbe molto più logico premiare quel chirurgo che fa bene il suo mestiere a quel livello, lasciandolo a quel livello e magari incentivandolo in altro modo. Questo è, diciamo, quello che noi chiamiamo meritocrazia meno ingenua. E quindi non andiamo contro la meritocrazia, ma contro una forma ingenua di meritocrazia che tende a spostare i migliori dalle loro posizioni. Cioè la promozione casuale diventa migliore come effetti per il semplice fatto che i meccanismi della promozione normale non funzionano. Una vera promozione casuale, se uno ci riflette, la promozione per raccomandazione non è casuale. Io promuovo, ho delle correlazioni ovviamente con chi promuovo, sarà mio nipote, mio amico, il mio zio, quindi c'è una correlazione, se volete, anche genetica. Una vera promozione casuale con un'estrazione proprio a sorte tra i dipendenti di un livello per chi deve passare il livello impedirebbe proprio l'opposto, impedirebbe qualsiasi forma di raccomandazione, a meno di truccare proprio l'estrazione casuale. Quindi, diciamo, sarebbe anche un modo per, diciamo, per contrastare questa piaga che, come sappiamo, insomma, in Italia, ecco, favoritismi, nepotismi, ecco, certo. All'estero non ci comprendono quando noi cerchiamo di spiegare. Noi sappiamo bene. Noi quello che abbiamo verificato, poi provando strategie alternative, abbiamo visto che effettivamente una promozione casuale, perché il punto è, se si libera una posizione, per esempio attorno all'esempio del chirurgo, del dirigente, qualcuno bisogna metterlo in quella posizione, il punto è è sbagliato mettere il migliore al livello precedente, cioè togliere qualcuno e spostarlo là. Sarebbe molto più logico prenderne uno dall'esterno. Ma dall'esterno, comunque in maniera casuale, cioè togliere, questa è la nostra proposta. Cioè, dico ora l'esempio del chirurgo, ovviamente poi va esteso a qualsiasi tipo di organizzazione, però quello che risulta è che obiettivamente promuovere in maniera casuale, non abbiamo calcolato poi l'efficienza complessiva dell'azienda o comunque dell'organizzazione in considerazione, quindi proprio vedevamo proprio in diretta quella che era l'efficienza nel tempo di un'azienda provando diverse strategie. Quella casuale era per esempio una delle più efficienti. Senta Bruchino, adesso io guardo un attimo in faccia Chiara che è qua di fianco a me, ma secondo me Chiara, cioè a questi qui, visto come sono stati dati certi premi Nobel per l'economia che hanno creato poi dei disastri, quelle teorie, cioè questo è un Nobel vero. Un po' hanno ragione, insomma, andrebbe premiato meglio. Bruchino e colleghi, secondo me meritereste un Nobel vero dell'economia. L'anno prossimo candidatevi. Vi ringrazio. A questo proposito cito il premio Nobel per la fisica di quest'anno, che è stato assegnato 2 giorni fa. Certo. Assegnato ad una persona, ad un fisico che aveva incredibilmente vinto 10 anni fa il premio Ig Nobel. Quindi diciamo ne parliamo tra poco. Siamo contenti che l'abbia citato lei, perché questo è il bingo di quest'anno, no? L'Ig Nobel che viene prima del Nobel. Esatto. Grazie mille Bruchino, faccia i complimenti anche al resto dell'equipe. Grazie, vi ringrazio dell'intervista. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Barbara Galavotti è qui con me per commentare il Nobel sulla fisica di questo 2010. Beh, insomma, direi che il premio è stato dato a qualcosa che effettivamente ormai ci circonda, possiamo dire così? Sì, ci circonda, ma in realtà allo stesso tempo è qualcosa di estremamente nuovo, perché questi due scienziati hanno vinto il Nobel per una scoperta del 2004, quindi sì, hai ragione. Ma hai ragione, certo. E non solo, sono anche incredibilmente giovani, perché Konstantin Novoselov ha appena 36 anni, che per essere un premio Nobel è veramente un record. Ricorda bene allora l'assegnazione del premio. Dunque, l'assegnazione del premio è avvenuta per alcuni studi fatti sul grafene, che possiamo considerare la componente primaria della grafite, è una sorta di cristallo bidimensionale in cui gli atomi di carbonio si dispongono prima esagoni e poi diciamo gli esagoni si combinano fra loro come cellette in un nido d'api, facendo questa sorta di foglio di atomi di carbonio. Diciamo che il premio Nobel è il riconoscimento del fatto che queste ricerche sul grafene e in generale, forse possiamo dire addirittura le nanotecnologie, sono veramente un passo avanti nella conoscenza scientifica dell'umanità, che si può riconoscere già da oggi, non bisogna aspettare alcuni decenni come spesso avviene per i premi Nobel. Cioè abbiamo un supporto, tipicamente adesso lo stiamo vedendo nei monitor e anche negli schermi dei cellulari, abbiamo un supporto che quindi è un oggetto tridimensionale, ma che però è, insomma, talmente sottile da poterlo considerare bidimensionale, e questo supporto conduce elettricità, informazione, è una specie di strumento di comunicazione infinito. Sì, guarda, dal punto di vista del cristallo è veramente un cristallo bidimensionale, perché si sviluppa su un piano, se non che ha delle caratteristiche veramente incredibili, è uno straordinario conduttore di elettricità e di calore, è trasparente alla luce, però allo stesso tempo è così denso che neppure i più piccoli nuclei atomici riescono ad attraversarlo. E questo dà una serie di implicazioni molto interessanti. Diciamo, dal punto di vista dei fisici si possono fare cose che mandano invisibili a un fisico, verificare alcune ipotesi della meccanica quantistica, fare alcuni studi sull'infinitamente piccolo, quindi qualcosa che ai fisici piace da impazzire. Dal punto di vista strettamente applicativo, le frontiere che si aprono sono enormi e vanno dagli schermi flessibili, quelli sottili come un foglio che si possono arrotolare e mettere in tasca, più lontano a un'estrema miniaturizzazione delle componenti dei computer, molto maggiore di quella già avanzata attuale. E questa in realtà però è una frontiera un pochino più lontana. Ci sono anche frontiere che potremmo pensare che possano essere un po' inquietanti, per esempio aggiungendo un po' di grafene alle componenti della normale plastica si può aumentare molto sia la loro resistenza meccanica sia quella al calore, e questo può fare della plastica, che è già qualche cosa di molto invasivo, anche qualcosa di molto più stabile e permanente. però è sicuramente un'applicazione che, ben usata, può essere estremamente interessante. Un paio d'anni fa, Barbara, io in Inghilterra ho visto, sperimentale, però penso che ormai ci siamo, questo oggetto di cui si parla in questi giorni, appunto a proposito del grafene e del Nobel, e cioè un foglio di giornale con su stampate, quindi, delle notizie, che però in realtà è un foglio elettronico che noi potremmo avere fisso con noi e ogni mattina, magari tirando giù dal computer o dal cellulare tutte le notizie, lo ricarichiamo, cioè praticamente un monitor quotidiano, sottilissimo, lo teneva in mano questo ricercatore ed era rotolabile come un foglio A4, un foglio A3, tranquillamente. Va bene, Barbara, ci fermiamo qui, direi che siamo soddisfatti e tutti di questo Nobel assegnato quest'anno, veramente buono, direi. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ma sei ancora qua? Sì, torno, esco, faccio un po' come voglio, ecco. Quanto è lunga la maratona, quella olimpiade? Allora, precisamente 42 chilometri, 195 metri. Che è anche la distanza tra Milano e Bergamo. Tu sei andata a piedi a Bergamo? No, io sono andata in macchina e ti dico che nell'auditorium, gremito, perché sono stata a Bergamo Scienza e devo dire che questa manifestazione sta crescendo, sta avendo un successo veramente... Sì, è vero, considerevole. Considerevole perché, ti dirò, c'era una folla da stadio all'ingresso dei concerti, proprio, ti posso dire, e insomma abbiamo dovuto sgomitare per entrare. Ti posso assicurare che è stato così. E il tema era la maratona. Il tema era proprio la resistenza fisica e psicologica nella maratona, ma anche nell'ultramaratona, che sono tutte quelle corse, quelle gare podistiche superiori ai 50 chilometri. Infatti adesso sentirai l'intervista sia al preparatore atletico Fulvio Massini, che ci ha raccontato quali sono gli ingredienti fondamentali, diciamo così, per diventare un campione, sia dal punto di vista biomeccanico che da quello biochimico. E poi ovviamente non poteva mancare un recordman, che è il campione italiano della 24 ore, ma non ti anticipo nulla. Va bene, sentiamo prima questa parte. C'è la fase dell'appoggio, si è detto di ammortizzazione, la fase di volo e la fase di spinta. Per voler essere più preciso, c'è una fase di appoggio posteriore, una fase di appoggio anteriore, una fase di volo e una fase di spinta, perché questo succede quando il piede tocca terra, che non diciamo deve attaccare di tutta pianta, va bene. Poi c'è una fase in cui quando il baricentro passa dal punto zero, cioè dalla verticale, da lì in poi inizia la fase di spinta e questa fase di spinta termina poi sull'alluce e dopo inizia la fase di volo. La fase di volo, che è una fase a costo zero, perché è una fase, diciamo, di inerzia che dipende dalla velocità, no? Con più che è alta la velocità, più lunga la fase di volo, perché più bassa è la fase d'appoggio. E mi pare di capire che c'è anche un rapporto con la frequenza, cioè sì. Più la velocità aumenta... Più la velocità aumenta, più aumenta la frequenza e l'ampiezza, diciamo, non diciamo che si regola automaticamente. Perché se uno pensa di regolare l'ampiezza, cerca di andare così in frenata, va a appoggiare troppo di tallone e quindi diventa un discorso antieconomico e poi c'ha delle reazioni a livello di schiena e possono essere estremamente traumatiche. In conseguenza a questo c'è una modalità di corsa sia per la discesa sia per la salita e ovviamente per la pianura. Sì, diciamo, il concetto è lo stesso, il concetto, l'idea nostra è che si corre, c'è una differenza di rapporti, cioè, però l'idea di base è la stessa, cioè che il baricentro, che si corre perché si sposta al baricentro, un po' come succede a bambini, no? Quando un bambino alla fase della quadrupedia si mette in piedi e passa da padre e madre, porta le braccia avanti e sposta il baricentro in avanti. Di fatto si va a ricercare questa situazione, cercando di far capire che non si corre perché si spinge, ma si corre perché si perde l'equilibrio. Questa è la situazione base, e poi noi la ritroviamo sia appunto in pianura e all'auto più semplice, sia nella discesa e anche nella salita. Ecco, poi ovviamente c'è tutta la parte dell'attrezzatura sportiva, che nella corsa forse la scarpa la fa da padrona, insomma. No, è fondamentale. Oggi una scarpa sbagliata ti fa venire un sacco di dolori, ecco per cui si cerca di usare scarpe che siano meno protettive possibile, perché si cerca di insegnare alla gente a correre, perché se uno impara a correre in modo corretto, come ho dimostrato nelle parole precedenti, non ha bisogno di scarpe tanto protettive, perché di fatto va a utilizzare l'elasticità dell'arco plantare e di tutta l'energia che accumula nel tendine d'Achille, che è fondamentale e che non è detto che faccia male perché uno ha un appoggio sbagliato. Uno, il tendine d'Achille in genere fa male perché uno non riesce a sfruttare l'elasticità. E poi abbiamo visto l'aspetto importante anche quello della dieta, della biochimica, della fisiologia del corpo, perché è importante avere degli zuccheri in corpo, dei carboidrati, è importante anche il recupero, no? Sì, è fondamentale avere gli zuccheri ed essere leggeri, perché il costo energetico della corsa varia in base al peso, per cui il podista deve essere leggero, però deve essere al tempo stesso carico di energia. Per cui la gestione degli alimenti, la gestione del glicogeno da poter utilizzare e trasformare in glucosio per costruire energia diventa fondamentale. Quindi l'utilizzazione di zuccheri complessi piuttosto che zuccheri semplici diventa fondamentale per le maratone e per gli ultramaratone. Quindi magari accumularli nei giorni precedenti, consumarli ovviamente durante la corsa e fare un recupero dopo. Soprattutto accumularli nei giorni precedenti, cioè mangiare carboidrati complessi in modo da averli a disposizione e poi cercare di usarne meno possibile durante la gara, perché comunque mangiare o prendere qualcosa è sempre un problema durante la gara, comunque fare un bel accumulo prima. Comunque si consumano tantissimi carboidrati e meno grassi di quanto si pensasse. Sì, si consumano meno grassi relativamente alla velocità di corsa, chiaramente uno fa l'ultramaratone consuma più grassi, è chiaro che se uno però finisce il glicogeno va a consumare più grassi, se consuma più grassi va più piano, quindi l'obiettivo è quello di tenere sempre un certo gradiente di zuccheri che ti permette poi di andare più forte sempre relativamente alla velocità di corsa. E ora sentiamo il recordman Ivan Kudin, che è ingegnere al sincrotrone di Trieste e anche l'atleta che ha stabilito il record italiano ai mondiali della 24 ore. La 24 ore è una corsa in cui uno deve percorrere più chilometri possibile e Ivan Kudin ne ha percorsi 263 e rotti. Il più possibile in 24 ore. Certo. Un po' estrema direi come corsa, no? Ma sicuramente, come si diceva prima, l'aspetto mentale diventa fondamentale in queste gare, non è solo la preparazione fisica che assolutamente è fondamentale, ma è proprio, diciamo, a differenza delle gare veloci, è l'approccio alla crisi che diventa fondamentale, mentre nelle gare corte la crisi pregiudica il risultato, nelle gare lunghe diciamo invece le crisi sono diverse ed è l'approccio, il superamento, il fatto di non abbattersi, di continuare in questi momenti che crea un risultato di valore, insomma, nazionale o importante. Questo è vero, immagino che la testa faccia tutto, perché solo il pensiero di correre 24 ore è terrificante e se non si parte motivati è impossibile arrivare alla fine. Assolutamente. Io ho un amore eccessivo per la corsa, mi piace troppo e quindi mi lascio trascinare da questa serenità, da questa gioia che provo nella corsa. Posso chiederti di riraccontare a me e agli ascoltatori l'episodio che hai raccontato prima, cioè correvi di più dei rifornimenti e cosa è successo? Ma è successo che quest'anno l'organizzazione non si aspettava degli atleti velocissimi, per cui siamo arrivati con anticipo rispetto alle previsioni ai ristori. L'altro atleta aveva del supporto, io invece ho deciso di vivere la corsa in maniera originale come è stata fatta da Filippide ai tempi, quindi appoggiandomi esclusivamente ai ristori. Gli ultimi tre, diciamo, prima del 220esimo chilometro mancavano ancora, per cui ho avuto una certa crisi di fame. Il secondo si è avvicinato, ha dato molto per raggiungermi. Io forse ho avuto quella forza mentale di non cedere proprio in quegli istanti, di continuare con il mio passo appena la crisi di fame è stata superata, reintegrando l'alimentazione, diciamo, mi sono ripreso e sono partito nuovamente, sì. Ivan, una serie di primati, quella della corsa, ma anche il fatto che sei un ricercatore, e a Mebius ne abbiamo parlato spesso, al sincrotrone di Trieste. Sono un ingegnere meccanico, mi occupo della progettazione delle strutture e quindi tutti quelli che sono i dispositivi che poi vengono utilizzati dai ricercatori in ambito, diciamo, delle ricerche che fanno sia nel campo farmaceutico sia nel campo medico dei materiali. La giornata tipo quanto ingegnere e quanto podista? Come dicevo prima, non posso fare a meno di entrambi. Ingegnere, diciamo, dalle 8:30 alle 6, podista tipicamente nei giorni infrasettimanali dalle 7:30 alle 8:30-9. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ve ne abbiamo parlato una settimana fa, il meeting torinese dedicato alle tecnologie e strategie per la valorizzazione e conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale in genere. DNA Italia, questo il nome dell'appuntamento, era la prima edizione, è andata bene, noi ne seguiremo gli sviluppi. Per darvi un'idea di quanto grande sia il ventaglio delle applicazioni possibili in questo campo, vi proponiamo due tecniche che più diverse fra loro non potrebbero essere. I falchi, sì, quelli che volano, i falchi, e il rilevamento a distanza tramite sensori a fibre ottiche. Cominciamo dai falchi che ha incontrato Sara Occhipinti, naturalmente insieme a un falconiere professionista. Sentiamo. Siamo qui con... E Paolo Caprioglio. E anche con... Navar, ovviamente. Chi è Navar? Navar è un falco di Harris che viene utilizzato per l'allontanamento dei volatili dannosi che possono invadere le fabbriche, possono invadere edifici di pregio e quant'altro. Navar quanti anni ha? Navar ha 5 anni. È un falco giovane? È un falco considerato ancora giovane perché comunque loro vivono 20 anni in cattività. 20 anni, anche 25. Ben diverso se fossero stato selvatico. Quanto vivono in natura? Stato selvatico vivono almeno la metà di quello che normalmente vivono in cattività. Per malattie? Per malattie, perché per debilitazioni, però insomma in natura non è facile sopravvivere. Nidificano o li tenete in posti chiusi, riparati? No, noi li teniamo dentro delle voliere dove hanno anche la possibilità di nidificare, tanto è vero che questi animali che abbiamo noi, proprio io specificatamente, sono tutti nati da animali che io possiedo in voliera, quindi da altre coppie, quindi si riproducono tranquillamente. Ecco. In alcuni casi possono nidificare anche in città? Questa specie no, perché non è una specie autoctona, ma è una specie alloctona, quindi vive nei deserti nordamericani, non la troveremo mai noi in Europa. Ce ne sono altre specie che invece possono nidificare, certo, in città, che vengono utilizzate apposta, magari per allontanare... Certo. Ci sono dei progetti che noi stiamo lanciando, come è quello del nido, dei nidi artificiali, per favorire l'inurbamento di alcune specie di falchi autoctoni, che sono i falchi pellegrini nello specifico. Questo sistema favorisce la nidificazione spontanea di queste coppie di falchi pellegrini, i quali a loro volta terranno sotto controllo la popolazione dei piccioni. I falchi selvatici sono i nemici dei colombi in qualche modo, si nutrono prevalentemente di piccioni. Ecco perché se noi favoriamo l'inurbamento di queste specie possiamo tenere sotto controllo la popolazione dei colombi. E altri progetti in cui sono utilizzati questi animali? Beh, questi animali vengono utilizzati da anni ormai anche per gli aeroporti, come noi sappiamo. Gli aeroporti hanno il problema dei bird strike, che sono questi uccelli che vanno a infilarsi nei motori creando dei problemi molto importanti. E da 30 anni questi sistemi con i rapaci vengono utilizzati con un successo formidabile. L'aeroporto di Torino è stato ad esempio precursore in Italia di questo tipo di attività. Vengono impiegati anche in progetti ospedalieri? Esattamente, noi li utilizziamo anche negli ospedali per allontanare proprio i volatili, i piccioni principalmente, che sono veicolo di patologie importanti, come la zecca ad esempio. Noi sappiamo benissimo che i piccioni veicolano un tipo di zecca particolare e negli ospedali sono molto sensibili a questa problematica, tanto è vero che ci chiamano spesso proprio per cercare di contenere questo problema dei colombi. Quindi voi arrivate con i vostri falchi? I falchi li facciamo volare, allontaniamo dall'area i colombi residenti. Fatto in maniera ripetuta, con una certa cadenza, diventa un lavoro definitivo. Alla fine i colombi si allontanano da quell'area lì perché la considerano non più un'area sicura. Noi a volte troviamo delle situazioni molto importanti, cioè situazioni veramente di infestazione pesante. A quel punto lì si stabiliscono una serie di interventi, possono essere anche fatti uno, due, anche tre interventi a settimana. Poi si va a calare man mano che i colombi diminuiscono, noi diminuiamo anche i nostri interventi. E invece per gli aeroporti quanti interventi occorrono? Allora, per gli aeroporti occorre un presidio fisso, perché lì è molto importante, perché negli aeroporti devono esserci dei falconieri presenti dall'alba tramonto, in quanto gli aerei atterrano e decollano in continuazione. Quindi quando c'è la problematica, viene segnalato la presenza di volatili nelle piste, viene chiamato il falconiere che presidia l'aeroporto fisso, e quindi viene chiamato e viene mandato sulla pista, fa il suo intervento, allontana i volatili, richiama il falco e così l'aereo può partire o può atterrare. Quindi ogni aeroporto ha i suoi falconieri fissi? Ogni aeroporto ha i suoi falconieri fissi, quasi ogni aeroporto. C'è una normativa dell'ENAC che dice che in base agli strike, quindi al bird strike che un aeroporto subisce nell'arco di non so quanti anni, si decide se utilizzare o meno questo tipo di attività. Nell'aeroporto di Torino è stato pioniere in questo, perché è stato il primo aeroporto in Italia ad utilizzare questo tipo di sistema. Dall'antica tradizione dei falchi, che più antica non potrebbe essere, alle tecnologie più avanzate. Cupola del Guarini a Torino, uno degli oggetti architettonici più strani al mondo. Vi ricordate? 13 anni fa un incendio la danneggiò profondamente. Adesso il restauro è in via di conclusione. Un nuovo sistema di sensori che un tecnico poserà sulla volta della cupola, percorrendola con un piccolo strumento da tenere sul polso, con un bracciale, ci darà un costante monitoraggio dell'edificio. Luca Barbaro della Lachesi, l'azienda che ha studiato e prodotto questo sistema, inizia a spiegarcelo. Il progetto Guarini, così è il nome che è stato dato appunto alla parte tecnologica relativa al restauro della cupola, si avvale di una serie di sensori che saranno dislocati all'interno della struttura, atti appunto a monitorare il sistema finito il restauro. I sensori, diciamolo subito, sono dei circolini di un centimetro di diametro. Esatto. Sono dei sensori che praticamente saranno annegati nelle stesse pareti dell'edificio, saranno praticamente non percepibili dall'utenza, da chi andrà a visitare il manufatto. Però prima di collocare i sensori c'è una fase di analisi. Esatto, c'è una fase di analisi e qui ci si adotterà un sistema che è unico al mondo, l'Otomimus, come un orecchio. Sarebbe appunto un orecchio elettronico che mima appunto il funzionamento dell'orecchio umano e registra il suono. Si percuoteranno degli elementi lapidei in questo caso, e la risposta data dal suono registrata da un microfono dell'Otomimus ne evidenzierà le eventuali fessurazioni, microfessurazioni all'interno. Cioè c'è un tecnico che percorre tutto il reperto, tutto il monumento, sia una cupola o che altro, e con un martelletto, genera delle vibrazioni. Delle frequenze sonore. Queste vengono registrate da un microfono. Attraverso un algoritmo il sistema è in grado di decifrare il suono e quindi praticamente dare la risposta di un'eventuale fessurazione all'interno del materiale. Quindi io in un dato punto e in una certa data posso trovare nessun problema oppure qualche criticità. Esatto. Il sistema mi registra tutto questo e tutti questi dati finiscono sui sensori. Allora, questi dati vengono in realtà archiviati dallo stesso palmare da polso, ma in realtà la novità è che attraverso dei radio frequency identification, che saranno appunto annegati nelle pareti o sui conci, questi hanno la possibilità di poter immagazzinare il dato che l'operatore in quel punto viene a registrare. Non so, in data 2 settembre l'operatore si presenta su quel punto, registra una fessurazione, il radio frequency appoggiato sul concio e registrerà appunto questo dato. Successivamente, per un'ulteriore operazione, magari l'anno seguente, io avrò il report di quello che era successo in quel dato giorno e con la nuova registrazione del giorno in cui mi presento per la nuova analisi. La cosa assolutamente singolare da sottolineare è che di questi sensori se ne possono piazzare tantissimi. Esatto, in realtà saranno circa 5.000 e oltre, esattamente quanti sono i conci che sono stati appunto censiti al momento che è avvenuto l'incendio e poi si è fatta una catalogazione. Quindi in realtà questi saranno esattamente il numero corrispondente ai conci che erano presenti all'interno della cappella. Tanti sensori, più di 5.000, registrano quindi dati relativi a tutta la volta, ma con una rete molto fitta di punti. Ancora Luca Barbaro. Attraverso appunto vengono chiamati MEMS, che sono dei Micro Electronics Mechanic System, sono in realtà degli attuatori che misurano appunto i movimenti della cupola nel qual caso ci sia un sisma o qualsiasi altro evento che possa generare vibrazioni. Attraverso un sistema POF, che sono delle fibre plastiche ottiche, attraverso queste fibre c'è il passaggio del dato, che avverrà sotto forma di luce, proprio per evitare, tutto il sistema funziona senza corrente elettrica, proprio per evitare il rischio di eventuali incendi e inneschi. Questo sistema, unito al radio frequency identification, collaborerà all'unisono per appunto creare questo sistema in remoto di monitoraggio della struttura stessa. Il che in conclusione genera mi pare di capire, un tremendo risparmio in termini di tempo e di costi. Esatto, economicamente parlando, le immagini, un intervento fatto a 20 metri, quindi dovrò chiamare una ditta specializzata a montare un'impalcatura per arrivare sul posto e magari scoprire che lì andava comunque tutto bene, mentre io in remoto da una postazione fissa posso interrogare il sistema in maniera anche puntuale e critica dove ci sono eventuali problemi e allora sì, mandare la ditta a 20 metri e sistemare in quel dato punto piuttosto che un altro. In conclusione, al di là di qualche gergale tecnico, credo che abbiate capito che si tratta di una specie di elettrocardiogramma continuo della cupola del Guarino. Ovviamente questo sistema potrà essere applicato a tutte, sono tantissime le situazioni analoghe. Kajima Corporation, impresa giapponese che lavora nell'edilizia e nelle costruzioni in genere. È un colosso multinazionale con cantieri in varie parti del mondo. Alla Kajima hanno sperimentato una nuova tecnica per demolire palazzi in quelle situazioni nelle quali l'edificio è circondato da altri e le procedure di solito utilizzate, quelle delle cariche esplosive, è meglio lasciarle perdere. Queste cariche sono quelle che poi vediamo che vanno bene per i palazzi isolati e che ogni tanto appaiono in qualche telegiornale, sollevano nuvole di polvere immense e in qualche caso, ce ne fu uno recente in Turchia nel 2009, evidentemente con un'errata disposizione degli esplosivi, l'edificio invece di polverizzarsi è crollato al suolo, lateralmente, integro, come un birillo da bowling. Quando si deve demolire un edificio in mezzo ad altri palazzi, quindi si usa il buon vecchio sistema di smontarli pezzo su pezzo, a dire il vero tanto buono non è come sistema, perché ci si mette un sacco di tempo dovendo partire dai piani più alti, dai quali ovviamente non si può buttare giù tutto liberamente. Quando magari si deve smontare un palazzo di 20 piani, con calma, allora con gru si portano giù piccoli pezzi. Un'altra strada ci sarebbe smontare il palazzo da sotto, cominciando dal primo piano e poi passare al secondo. In questo caso le macerie sarebbero già a terra e si potrebbero portare via a grandi pezzi, solo che come si fa a incominciare dal basso? Quelli della Kajima hanno trovato il sistema. Dei grandi martinetti, ovvero come dei crick molto, ma molto più potenti di quelli che si usano per sollevare le automobili. Si mettono nei punti giusti, si buttano giù le colonne e poi si fa scendere lentamente il piano dopo aver rimosso anche i muri. Lo hanno già sperimentato e funziona. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Se il Nobel per la fisica 2010 si segnala per aver premiato un 36enne e un 53enne, e il fatto è effettivamente raro, quello per la chimica si sbilancia ancora di più invece verso il consolidato trend anziano. Richard Heck ha 79 anni, Eiki Negishi, giapponese, ne ha 75, Akira Suzuki è a 80 di anni. Però è chiaro che a volte il premio viene assegnato a ricerche che hanno dimostrato la loro grande validità solo dopo molti anni, e questo non può essere sorprendente perché magari uno ha un'idea molto buona, ma bisogna aspettare che arrivi qualche strumentazione in grado di verificarla, quest'idea. Albert Einstein, per esempio, non prese il suo Nobel per la teoria della relatività. Lo prese per l'effetto fotoelettrico, che era già premiabile, diciamo così, nel 1905. Ma è indubbio, tanto per fare una considerazione sui tempi lunghi, che nei prossimi decenni si vedrà l'enorme importanza di questo fenomeno nella produzione su vasta scala di energia generata dal Sole. Per la relatività, che risale ai primissimi anni del Novecento, invece, sono dovuti passare un bel po' di anni per avere le prime verifiche sperimentali, e si può dire che le grandi e stupefacenti dimostrazioni di questa teoria sono arrivate in periodi relativamente recenti, tantissime negli anni 60 del secolo scorso. Tuttavia, a volte i conti non tornano. Nel 1986 fu assegnato il Nobel per la fisica agli inventori del microscopio elettronico, che già era in circolazione da una ventina d'anni, e si può dire che già dalla prima mezz'ora dopo la sua invenzione era chiaro che fosse uno strumento di portata eccezionale e con riflessi in tutti i campi. Misteriosi criteri dell'Accademia delle Scienze svedese che assegna i premi. Qualche anno sembra che si accorgano di aver dimenticato dei pezzi di scienza e quindi corrono ai ripari. C'è poi un problema che sta emergendo da non poco tempo, da un bel po' direi, e che si potrebbe rappresentare nel seguente interrogativo. Chi ha fatto che cosa? Non è infatti facile decidere per molte ricerche chi debba essere premiato. Il Nobel non va mai a più di 3 persone per una stessa area di ricerca, ma è un dato facilmente riscontrabile che in alcuni casi ci si trova un po' come se all'ultimo portatore della torcia olimpica, quella che ogni 4 anni attraversa tutti i continenti, fosse dato un premio per la sua lunga corsa. Un esempio ce l'abbiamo già all'orizzonte, si chiama LHC, l'acceleratore di Ginevra di cui spesso parliamo. Sta andando a caccia del bosone di Higgs e il signor Higgs, vivente, se il suo bosone sarà trovato, un Nobel lo meriterà. Ma poi non si potrà certo dire che la caccia al bosone sia stata un'attività secondaria. C'è un sacco di intelligenza e di genialità in quella macchina. Io dico, e non sono solo io, che in un caso come questo si dovrebbero dare almeno una 30ina di Nobel. Concludiamo sulla chimica. Heck, Suzuki e Negishi fra il 1960 e il 1970, e vedete, sono andati molto indietro nel tempo, hanno inventato un marchingegno chimico basato sul palladio, che è in pratica un catalizzatore molecolare. La chimica è sempre molto difficile da spiegare, soprattutto via radio, però che conta, insomma, è la sostanza. E qui abbiamo allora uno strumento che riesce a fare miracoli nel creare delle strutture molecolari molto complesse. Se i mattoni sono le molecole, poi ci vuole qualcosa che consenta di fare le case, i ponti, gli stadi e la via così, mettendoli insieme, insomma, questi mattoni. Questa scoperta ha avuto enormi riflessi, per esempio, nella produzione di farmaci. Però, vedete, non è che lo sappiamo dalla scorsa settimana. Comunque, meglio tardi che mai, non si dice così in questi casi. A Mebius vi stiamo proponendo di questi tempi delle storie di scienza e adesso quindi Maurizio Melis ve ne racconta una che ci porterà letteralmente dentro la nostra testa. E inizia questa storia con una donna che parla al suo medico. Dottore, lei crede veramente di conoscere la mia personalità meglio di me stessa? Si rimette a sedere, per favore. Lei può discutere dei miei problemi quanto le pare, ma non con me. Una storia che qualche brivido lo fa venire, che suscita molti pensieri. Quindi noi a questi pensieri vi lasciamo. Mebius vi saluta, ci sentiamo fra 7 giorni. Una storia che qualche brivido lo fa venire, che suscita molti pensieri. Quindi noi a questi pensieri vi lasciamo. Mebius vi saluta, ci sentiamo fra 7 giorni. Una storia che qualche brivido lo fa venire, che suscita molti pensieri. Quindi noi a questi pensieri vi lasciamo. Mebius, vi saluta. La voce che avete sentito è quella di Jessica Lange, la scena altamente drammatica, quella di un film, Frances, del 1982. La storia è quella di Frances Farmer, attrice di grande successo degli anni 30, bellissima e anticonformista, considerata scomoda negli ambienti patinati della Hollywood di quei tempi. Una storia, quella di Frances Farmer, segnata da 5 anni trascorsi nel manicomio del Western State Hospital tra il 1945 e il 1950. Anni di reclusione, di trattamenti tanto inutili quanto traumatici, come per esempio lo shock insulinico fino, ma forse questa è una leggenda, fino, diciamo, alla lobotomia. Ma perché vi parliamo di Frances Farmer e di questo film? Perché è lo stesso che utilizza il nostro ospite Giuseppe Armocida coi propri allievi per introdurli al clima che si respirava nei reparti di psichiatria negli anni 40. Armocida è docente di storia della medicina e un passato da psichiatra proprio a Varese, dove si svolge la vicenda di cui vi parleremo oggi. Buonasera Armocida, benvenuto a Mebius. Buonasera a voi, grazie di avermi chiamato e di darmi la possibilità di parlare con i vostri ascoltatori. Allora, lei è uno storico della psicologia e si è occupato proprio di questa storia poco conosciuta che si svolse tra gli anni 40 e 50 all'ospedale neuropsichiatrico di Varese, che ha un protagonista, il professor Mario Adamo Fiamberti, divenuto famoso per una operazione chirurgica, la leucotomia transorbitaria. Ecco, partiamo da qui. Di che cosa si tratta? La leucotomia transorbitaria, secondo Fiamberti, cioè una tecnica che facilitava l'operazione perché la toglieva dalla sacralità delle sale chirurgiche attrezzate dai neurochirurghi e consentiva a un qualsiasi psichiatra di applicarla in modo facile. Lo stesso film che lei ha citato vede una scena in cui Freeman, un chirurgo americano che usava la stessa tecnica, raccontava ai colleghi che con questo suo metodo poteva operare decine di pazienti al giorno, mentre con il metodo classico ne avrebbe potuto operare solo 1 o 2. Ecco, si tratta di una lobotomia però. Sì, in realtà la lobotomia fu inventata da Edgar Muniz, un portoghese, verso la metà degli anni 30 e prevedeva una trapanazione del cranio come un'operazione normale chirurgica e quindi tutta un'attrezzatura notevole, mentre Fiamberti inventò questo strumento speciale, un leucotomo di Fiamberti che veniva introdotto in cavità cerebrale passandosi nell'orbita, sopra l'occhio. Con un colpo di martello si introduceva il leucotomo e questo poi con una tecnica che il film spiega bene, raggiungeva gli stessi risultati. Quali erano gli effetti di questo intervento e un po' di tutti gli interventi di questo tipo? Certo, una base teorica debole se si vuole, ma in realtà abbastanza motivata anche su un piano, diciamo così, scientifico, è che il taglio delle fibre che connettono il cervello anteriore con il resto del cervello produce una sorta di anaffettività, toglie alcune motivazioni di aggressività, e quindi è vero che questi meccanismi biologici ci sono. In realtà questa operazione è stata criticata perché fu applicata in maniera forse eccessiva a moltissimi casi in cui oggi riteniamo che non fosse necessario applicarla. Dobbiamo però sapere che quando si svolgono queste scene negli ospedali la psichiatria non aveva ancora gli psicofarmaci. Ecco, abbiamo parlato della dimensione scientifica, ma poi c'è anche una dimensione culturale. Sentiamo che cosa scriveva nel 1916 Lewis Terman, l'uomo che convinse il governo americano a sottoporre al test del QI, quindi del quoziente di intelligenza, pensate un po', praticamente tutti i bambini americani. Ascoltiamo. L'opinione comune che il bambino proveniente da una famiglia colta rende meglio nei test unicamente per i vantaggi delle sue migliori condizioni familiari è un'opinione del tutto gratuita. La normale osservazione suggerisce di per sé che la classe sociale cui la famiglia appartiene non dipende dalla sorte, ma dalle naturali qualità dell'intelligenza e del carattere dei genitori. Torniamo in studio sulle note dei Nirvana che dedicarono questa canzone a Frances Farmer. Siamo dentro ad una logica cosiddetta di determinismo biologico, cioè la convinzione, diffusa anche negli anni 40, che in qualche modo tutto ciò che atteneva al comportamento e anche al successo sociale di ogni individuo dipendesse appunto dalla propria eredità, oggi diremmo dai propri geni. Oggi è cambiato questo punto di vista in modo radicale o insomma si discute un po' ancora su questi temi? C'è da dire che oggi si discute sempre su temi che ancora non hanno una soluzione dal punto di vista delle convinzioni, diciamo sempre con una parola che si deve usare con un certo beneficio di inventario scientifico, perché voi avete adesso raccontato di come si vedeva il mondo del fanciullo, ma se tornassimo indietro di qualche decennio rispetto a quell'epoca dovremmo vedere come la scienza intendeva la differenza di genere tra maschio e femmina. Certo. Perché la scienza non dubitava che la donna fosse meno intelligente dell'uomo, e questo durante tutto l'Ottocento era scritto in trattati che non avevano poi grandi discussioni. Era un punto del medico, di partenza addirittura delle ricerche a quell'epoca, cioè si partiva da lì dando per scontato questo fatto e si cercava di giustificare, di trovare, come dire, degli elementi fisiologici, anatomici che in qualche modo dimostrassero quello che era, come dire, dato per assodato. Dimostravano quello che poi la società determinava, cioè l'esclusione della donna da certi compiti che erano riservati al maschio, compreso per esempio la rappresentanza politica, per scendere poi fino alle professioni, e per dare giustificazione a questa sorta di ingiustizia sociale si cercava l'asseverazione di quella voce indubitabile che è sempre la voce della scienza. Ecco, adesso abbiamo una testimonianza, è quella di Ugo Salvatores, neurologo che fu primario all'ospedale neuropsichiatrico di Varese proprio ai tempi di Fiamberti. Sentite che cosa ci dice di lui. Lui aveva creato un ambiente molto favorevole ai malati, aveva creato un teatro, aveva creato dei centri sportivi, un laboratorio, e chi faceva il falegname veniva collocato nel laboratorio del falegname, cioè ognuno aveva una funzione, insomma, nei malati recuperabili. Lui tendeva a recuperare i malati e poi li dimetteva. C'è la figura del direttore e la figura dello scienziato. La figura dello scienziato è opinabile prima di tutto perché si sa che passano 20 anni e si nega o si modifica quello detto 20 anni prima. quindi lui apparteneva a suo tempo alla medicina positivista che veniva fuori dall'Ottocento, no? Certo. Come scienziato, quindi le sue idee erano un poco ingenue, come sono spesso le idee ingenue degli uomini di scienza di un secolo fa. Dunque, Armocida, lei è d'accordo che si possa tutto sommato avere un giudizio positivo di quest'uomo, di Fiamberti? Cioè, è sufficiente evocare il clima scientifico e anche culturale che si respirava all'epoca per assolvere chi in qualche modo ha fatto uso di queste pratiche che oggi consideriamo inaccettabili? Fiamberti fu un'eccellente persona. Lascia delle testimonianze assai importanti, alcune peraltro che non sono tramontate di valore, e non possiamo criticare il fatto che adeguandosi all'atmosfera del tempo lui fosse uno che credeva molto nelle terapie biologiche. Le faccio una domanda un po' insomma da stregone: secondo lei, se non ci fossero i psicofarmaci, se non fossero stati inventati, si utilizzerebbe ancora oggi la lobotomia o qualcosa di simile? Guardi, se non ci fossero gli psicofarmaci si utilizzerebbero ancora i manicomi. Grazie Giuseppe Armocida. Grazie a voi. Una storia che qualche brivido lo fa venire, che suscita molti pensieri. Quindi noi a questi pensieri vi lasciamo. Möbius vi saluta, ci sentiamo fra 7 giorni.